La buona notizia è che se il genitore non vi ha dato queste ingiunzioni, allora si suppone che vi abbia dato il permesso corrispondente. Esistono anche i permessi. Allora, i permessi, il primo permesso che un genitore dà è quello di esistere, di essere al mondo. Sono contento che tu sia al mondo, sono felice che tu ci sia, sono fiero che tu sia. Sì, ma tante volte neanche detto, il bambino no, viene. Certo, no, i permessi non sono. Ah, ecco. Viene accudito, coccolato, amato. È chiaro che a quel punto di lui cresce, è sottinteso che ha il permesso di esistere, non c'è mica problema. E il permesso di essere se stesso, nel suo sesso, basta che non glielo pone le scatole, lui spontaneamente lo sa il sesso, lo sa cosa gli piace. Il permesso di riuscire, basta che un bambino possa vivere in un ambiente sano e poter esplorare. Automaticamente gli viene dato il permesso. Quando ha qualche successo gli viene riconosciuto senza pomparlo, senza pomparlo, perché la nostra cultura, sti bambini, ce n'è uno ogni 12 adulti, a qualsiasi cosa che fanno, è così, no? E sti bambini non sono assolutamente aiutati da questo tipo di comportamento. Ma il permesso di riuscire viene dato anche dai genitori che riescono, senza grande sforzo, serenamente a fare le cose, per il permesso di riuscire. Permessi vengono dati dagli esempi, quindi la cosa più potente dei permessi sono gli esempi, sono i messaggi ricevuti, sono il clima della famiglia. Genitori che stanno nell'emozione, che ridono, che esempio. Da chi ho ricevuto questi permessi? Non tanto da mio padre, che era uno che faceva dei casini, ma da Boris. Con Boris siamo andati a Corena, siamo andati a fare dei corsi, c'erano mille persone. Ma si vedeva come la pasta proprio, ma sei quello che proprio non ha la minima paura. Frequentando lui mi è passato anche a me. Che di che c'è da aver paura? Cosa ti può succedere? Quindi i sacerdoti maestri possono riscrivere. Ma parte ragazzi, com'è che cambiamo il copione? Noi siamo qua per questo. Romperci le palle sul nostro passato all'infinito, la cosa più semplice è trovare uno nuovo, lo chiappi di vicino, ci stai un po' insieme, ridecidi. Quando io ho trovato Boris Corena, lui univa insieme tutti i permessi di cui avevo bisogno. Nel giro di, vi racconto la scena, come sono andato al conservatorio da lui, che è uno dei più grandi compositori che ci sono in Italia, pianista e tutto. Sono andato da lui per fargli vedere qualcosa di improvvisazione musicale. Ma è come andare appunto, non so, ci vado da Foncara, cioè, ma non è facile, sì, sì. Il conservatorio è un ambiente peggio di quello di solito, qualunque posto sì. Sono andato là e ho pieno di paura, cioè, perché io tra l'altro non sono pianista, sono violoncellista, andavo a fargli vedere una copia di improvvisazione musicale pianoforte, cioè proprio per mettere uno stato. Quando sono entrato di lì, quando l'ho visto, mi ha detto, siediti, ti faccio vedere qualcosa. Tutta la paura se ne andata in un colpo. Paf! Fine! Questo maestro. Fine. E dopo ecco perché sono stato a casa sua, ho frequentato lui, ho seguito quelle nevrosi che avevo prima, che la psicanalisi che non aveva aiutato se non minima parte a risolvere, e se ne sono andati. Quando stavo vicino a lui, ho cominciato a frequentare il suo mondo, mi ha cambiato lui. Perché stavo vicino a un maestro. Attenzione, che è pieno di falsi maestri. Cioè dei maestri che sono, sto parlando di maestri, quelli che davvero sono le qualità dell'essere, non quelli che fanno finta, non quelli che hanno bisogno di arrivare, quelli che hanno bisogno, perché quelli da una parte ti sostengono e poi fanno come con te, poi ti mazzuolano. Io direi, poi c'è ancora non essere intimo, ma più o meno di amici, non stare bene. Beh, non stare bene è carina, cioè il genitore spinge al bambino ad ammalarsi, perché il bambino prende attenzione solo quando è malato. E quindi praticamente il bambino poi è sempre malato. È come se gli dicesse non stare bene, perché quando non sta bene. Tutte le volte che si ammala gli dà affetto, appena sta bene non vede più. Qual è il bambino che dà questi permessi al genitore? Il bambino libero, quello che ha fatto la sua strada, quella che doveva fare, quindi il bambino gioioso, il bambino che si realizza in accordo con l'adulto e col genitore cecchino. Il Ricordi cosa dice Gesù? Non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini. Oggi possiamo specificare bambini liberi. Se diventate bambini oppositivi, bambini narcisisti, non entrerete nel regno dei cieli. Siete bambini liberi. Bambino libero è colui che si esprime in modo diretto, vero, unito, innocente. Si dice che i bambini sono innocenti, cioè non fuori. La parte bambina nell'adulto è la parte più bella che c'è. Boris è un uomo di 80 anni adesso, c'è la parte bambina subito, scherzi, gioca, ride, humor, tu che fai il lavoro sull'humor, è la tua parte bambina. La parte bambina di un adulto è quella che gioca. Ricordatevi le tre, grandi energie archetipiche, che forse non tutti. Campbell. Studiando le diverse culture del mondo, ho trovato che ci sono tre energie archetipiche fondamentali: sono forza, gentilezza e humor. Guardate un po', la forza corrisponde a che cosa? Padre, maschile, padre, genitore. La gentilezza, la mamma, l'humor, la mamma. Un io sano è un io che ha in equilibrio forza, gentilezza e humor. E se forza, gentilezza e humor è un io anche che sa pensare, cioè che sa pensare adultamente. Ecco cosa vuol dire. Infantilismo vuol dire la persona che sono rimasti capricci infantili, bisogni infantili. Invece del bambino la parte bella è l'espressività, la genuinità, tutto. Potremmo fare un elenco di quelle che sono le caratteristiche dei bambini che ci piacciono. Quelle, se rimangono in adulto, è un adulto meraviglioso. Ma non quando fa le ingiunzioni. Le ingiunzioni del bambino, è il bambino invidioso, bambino oppositivo, bambino che ha le pretese. Quindi è il bambino negativo che c'è in noi. Esatto. Come l'ego, ce l'abbiamo tutti, il copione ce l'abbiamo tutti. Tanto più siamo liberi dall'ego, liberi dal copione, tanto meno inviamo ingiunzioni spinte. E invece diamo permessi. Lo stesso vale per un insegnante, se un insegnante di pianoforte, quello che è importante è chi ha dei permessi di riuscire, di essere, di godere mentre fai, di. E fare quello che vuoi, non che devi fare chissà che cosa. Se nel bambino libero, nell'adulto e nel genitore affettivo ti dà tutto questo, tu fai le cose e fai senza sforzo. Altrimenti avrai un maestro di pianoforte che ti spinge a sforzarti come una bestia senza ottenere niente. Chi ha inventato il solfeggio per essere pianoforte? C'è una cosa che funziona poco, quello è il ritmo. Ecco, sforzati. Brigati, non piace, tutte quelle robe. Ecco, queste cose che vi ho detto dei genitori vanno benissimo per i maestri di musica e tutto quello che incontrate nella vita in posizione di autorità.